si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori da Laura Bettini, sono le 8:32 minuti, una buona giornata a te Carlo, buongiorno. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come procede? Un po' che non ci si vede, tutto a posto? Sì, è difficile. In alcuni momenti penso che non ci sono, che abbiamo un po' finito le parole, solo che è l'unica cosa che veramente in radio non si può dire, quindi è molto dura, ma proseguiamo fiduciosi. Proseguiamo fiduciosi fino all'attribuzione anche oggi dei nostri premi in libri. Potete prenotarvi all'800 24 00 24. Questa volta cosa bisogna fare? Beh, bisogna rispondere correttamente al nostro quiz, come ogni sabato. C'è un testo, tre possibili conclusioni, tre possibili risposte, ma solo una è quella corretta e chi vince appunto vince libri, perché il MUDEC al momento ovviamente come tutti i musei è chiuso, ma noi parleremo tra l'altro indirettamente di MUDEC oggi, perché dal MUDEC sono partiti dei robottini che in questo momento invece di essere in esposizione appunto nella mostra che era prevista sono andati a prestare soccorso negli ospedali. E quindi è un così anche vero, noi vero, è una storia, no? Bellissima peraltro questa dei robottini, sono molto contento perché visto che il robot non può lavorare al momento all'interno della mostra lavorerà in ospedale, quindi sono molto curioso. Anch'io sono molto curiosa, sono rimasta abbastanza stupita, ma sono felice che anche il gruppo 24 ore abbia indirettamente dato il suo contributo appunto liberando uno di questi, cioè liberando questi robot che erano in esposizione a Milano. Oh, poi c'è sempre il 349-238-6666 per sms e whatsapp con i quali si può commentare e magari ci potete anche dire oggi, Carlo, che cosa farete quando finalmente diciamo torneremo a piede libero. Non sarà libero liberissimo, ma comunque qualcosa in più potremo fare. Io ci ho pensato a lungo, non so tu Carlo se hai già, no, la lista di quello che ti piacerebbe fare. Guarda, io cambio ogni giorno, perché ogni giorno quando spostano in avanti dico no, allora la voglio fare più grossa, no, la voglio fare più grossa. Inizio a temere che il giorno che quando, cosa faremo dopo, spero semplicemente che non sia che devo andare a comprare regali di Natale, ecco, diciamo. Ah, beh, no, adesso no, dai, qualcosa prima, non lo so, magari un costume per l'estate, speriamo. No, sarà sicuramente prima, lo dico per scongiurarla. Io c'ho così, ho pensato a lungo tante cose, poi alla fine ho detto, ma sai che una passeggiatina lungo fiume con i piedi nell'acqua, in libertà, mi piacerebbe veramente. Bello. E poi sdraiarsi anche lì sul prato, tanto ormai verrà caldo, quindi... senza sentirsi in colpa, anche se sarò da sola comunque, magari con la mia famiglia, però insomma potrò farlo con serenità e mi piacerà moltissimo. Comunque chi vuole ci può scrivere il suo pensiero 349-238-6666. Invece riflessione tua della settimana? Ma guarda, come dicevo la settimana scorsa, commentando il discorso del nostro presidente Sergio Mattarella, ho sempre più la sensazione che come gli amici, così tutti gli esseri umani si rivelano per quello che sono nel momento del coronavirus, se possiamo scrivere un nuovo modo di dire. Domenica scorsa Barbara D'Urso e Matteo Salvini hanno recitato in TV Un eterno riposo per i morti del virus, che come sappiamo insomma ha indignato tutti quanti, compresi i parenti delle vittime. Claudio Carrara ha scritto: mio padre è morto in ospedale a Bergamo il 10 marzo, questo squallido teatrino è un insulto alla sua memoria, non ci sono parole allo schifo. Mi fermo qua con i commenti, ce ne sono stati tanti altri. L'ex ministro dell'interno ci ha abituato allo sfruttamento della religione e dei suoi simboli a scopo di propaganda politica. Ma se esiste una cosa peggiore è farlo in questi momenti di tragedia nazionale. Qui siamo all'abuso della disperazione, lo dico da persona che ha avuto un'educazione cattolica, ho recitato vari rosari in gioventù, tanto da sapere bene, e lo ricordo anche a Salvini e alla D'Urso, che nel rosario non si recita l'eterno riposo, ma il commovente salve o regina. Quindi non so bene che tipo di rosario recitino loro due, visto che hanno detto che loro lo fanno tutte le sere. Poi ci sono invece altre persone, qui c'è la buona notizia, che anche durante il coronavirus tengono la barra dritta. La buona notizia è che ci sono coloro che cercano di analizzare ciò che accade, ma parlando solo di ciò che conoscono. Nello specifico prendo un caso ed è Anna Maria Testa, che conosciamo, esperta di comunicazione, spesso nostra ospite, che ha trattato su Internazionale un argomento di cui parlo spesso, ovvero smettiamo di dire che quella del Covid-19 è una guerra, perché è una metafora che è sbagliata. Solo che lei lo fa meglio, spiegando anche il concetto di contesto in cui si possono o si devono usare le parole, forse appunto perché questo è il suo lavoro e non è un'esperta improvvisata. Arriva a una conclusione dicendo: non è una guerra ed è pericoloso pensare che lo sia, perché in questa cornice risultano legittimate derive autoritarie. Impossibile non pensare all'Ungheria e a Orban che, sfruttando l'emergenza, sospende la democrazia in un paese europeo. Dovremmo occuparci anche di questo. Chiudo con le parole dello psichiatra Luigi Cancrini, che dice: la guerra è il tempo dell'odio. In guerra, per sopravvivere, si è costretti a uccidere l'altro. Invece questo di oggi, del Covid-19, è il tempo della solidarietà. E sicuramente in questo tempo, sì, per non uccidere stiamo a casa, anche questo è un ribaltamento sicuramente. Ti ricordi, Carlo, che la settimana scorsa l'ultimo nostro ascoltatore intervenuto, che tra l'altro vinse, indovinò il personaggio della settimana, ci disse anche di essere risultato positivo ai controlli per il Covid? Certo che lo ricordo, e che si era proposto che l'avremmo richiamato. È esattamente quello che abbiamo fatto, quindi voglio dare il benvenuto ad Alessandro, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi. Alessandro, come va? Una settimana dopo, insomma. Buongiorno Carlo, parole molto molto commoventi di quello che hai appena detto, sa? Condivido appieno e sono pienamente d'accordo su quello che hai appena detto. Grazie mille. Questione particolare, non di guerra, ma di solidarietà, in dubbio. Queste sono cose veramente toccanti. In effetti, questa situazione, appunto, di questa virulenza così importante in Italia, ma non solo nel resto del mondo, lo dimostra. Quindi, massima solidarietà e andare avanti barra dritta, ma sempre con l'intenzione, appunto, e anche la voglia di riuscire a superare questo difficile momento e a riuscire, appunto, a venire fuori. Alessandro, lei come va con la sua quarantena? Come si sente? Insomma, sostanzialmente ecco, abbastanza bene. Dai. Nel caso mio, nello specifico, questo virus mi ha colpito, ma mi ha colpito in modo non proprio così intenso come negli altri casi che abbiamo visto anche nella cronaca nazionale. Si va abbastanza bene, sono abbastanza fiacco, spossato. Poco appetito, ecco, mi sono completamente isolato anche dalle famiglie in modo da non creare situazioni particolari, perché ho anche un papà che è un po' anziano, quindi mi sono, per fortuna, ho la possibilità di avere una seconda abitazione, quindi mi sono isolato completamente. Ecco, con mia moglie che fa la scuola ogni altro giorno nelle possibilità e mi porta quello che mi serve nel quotidiano, e quindi appunto vivo questa situazione un po' da recluso, ma separato, in modo da creare meno problemi alle famiglie. Insomma. Certo, per ora quindi in famiglia lei diciamo non ha contagiato nessuno, non risulta, sembra. Allora, tutto... guardi, al momento penso di no. Mia moglie, siccome anche lei lavora in un ambito sanitario, ha in corso un tampone che non è ancora arrivata la risposta, l'ha fatto la settimana scorsa, ma non sappiamo ancora esattamente la positività o la negatività. Quindi siamo ancora in attesa e speriamo, insomma, che nel caso suo non ci sia positività, questo spero ovviamente. Certo. Ma mi scusi, ma lei è in quarantena dentro casa sua o avete due case? No, allora io per fortuna ho due case, di cui una è di mio papà, e mi sono spostato nella casa di mio papà in modo da non creare appunto situazioni di difficoltà all'interno del mio nucleo familiare. Ho la possibilità, certo, di averla poco lontano. E ha spostato suo padre insieme a sua moglie? Come dice, scusi? Ma e vive con suo padre? No, mi chiedevo perché come funzionava la quarantena quando uno è chiuso in casa con altre persone, nel senso che già tutti stiamo vivendo la quarantena da casa nei confronti di chi abita in altre case, ma se addirittura all'interno della casa bisogna stare attenti con uno e l'altro, mi chiedevo come funzionava questa quarantena. Allora, diciamo che le attenzioni particolari per chi è positivo al tampone con lievi sintomi sono quelli di mantenere esattamente le distanze di sicurezza e avere, diciamo, i presidi, in questo caso la mascherina che lo tuteli, in modo che non crei problemi, diciamo, alla persona con cui vive. Nel caso mio specifico ho voluto fare così perché, essendo e vivendo una realtà anche lavorativa particolare, mi sono proprio completamente isolato dalla famiglia proprio per non creare situazioni particolarmente anche più quello che è già capitato a me personalmente. Io ho la possibilità, come dicevo, di avere due abitazioni, perché una è di mio papà, che è una dependance poco lontano da dove abitiamo, e quindi mi sono spostato lì. Mio papà vive in un appartamento al di sotto dove abitano la mia famiglia, quindi ecco, siamo un po' tutti qua, siamo isolati in tre diversi distretti. Ecco, mio papà per conto suo, io da mia famiglia di sopra e io da un'altra parte. Vabbè, bisogna ingegnarsi in una situazione. Sì, appunto, io mi sono un po' organizzato così, avevo già anche mezza idea che poteva succedere qualcosa, perché nell'ambiente dove lavoro io, sostanzialmente, già nei primi giorni del verso metà marzo, così, avevamo già 10 colleghi positivi e tampone. Quindi mi sono trovato anch'io nella situazione di potenzialmente di essere infettato, in effetti il tampone me l'ha confermato. Senta, e l'ultima cosa le volevo chiedere, lei che appunto già lavora in ambito sanitario, no? Sì. Sa che evoluzione ha la malattia, cioè dopo una settimana lei è avviato verso una malattia più in forma un po' più leggera forse? Allora, per fortuna, come dicevo, sì, nel senso i sintomi che ho accusato fin da subito è stata appunto una spossatezza e la difficoltà appunto nel mangiare, con a volte anche della difficoltà anche nella digestione. Per fortuna non ho avuto problemi né di tosse né di febbre, oppure anche la perdita di tutto che ho fatto, come tanti hanno avuto, e quindi nel caso mio nello specifico diciamo è passata un po' alla leggera, o quantomeno si è presentata in forma meno pesante, come nei casi che abbiamo visto della cronaca. Grazie. L'unica cosa che mi trovo appunto è che da un punto di vista proprio così fisico, del psicologico, specifico, il fatto di essere isolato e chiuso e per una serie di situazioni appunto che si sono create, questo non gioca certo a favore sul fatto anche del pensare, o quantomeno della situazione appunto di vedere anche in modo positivo il decorso di questa problematica. Beh certo, c'è poi anche la preoccupazione per il padre, certo, per le persone, certo, no, che uno conosce, certo, per certo. Cui c'è un aspetto personale e un aspetto poi riferito, certo, agli altri. E poi tra l'altro sicuramente io avevo un po' un'idea di come funzionava, però ecco adesso vivendo in prima persona sinceramente uno lo prova su di sé e dico è una cosa che disturba parecchio, perché non è tanto il fatto che uno si stacchi completamente dall'ambito familiare in cui vive, ma è tutta quanta anche una procedura burocratica che ci gira attorno, nel senso nel comune dove si risiede, come vengono gestiti in modo diverso i rifiuti, giustamente. Tutta quanta una situazione di questi giorni qua che sono stato anche, sono qui isolato, avrò avuto una decina di telefonate su cosa fare, come non fare, capisco che giustamente ci sia anche questa preoccupazione, anche ben venga, nel modo che non ci siano ulteriori problematiche anche di espansione del virus. Certo. Certo, Alessandro, grazie mille allora. Bene, grazie a voi e complimenti sempre per la vostra trasmissione, io la seguo costantemente quando posso, logicamente perché i tempi di lavoro non sempre me lo permette, però ecco, apprezzo molto e anche ascolto molto Radio 24 perché mi chiede, oltre a tenermi compagnia è una radio che ti aiuta a capire tante dinamiche di come gira il mondo e di come appunto si muove il mondo. Se mi permette una battuta, prego. Una battuta, l'abbiamo messa in quarantena apposta per avere un fedelissimo ascoltatore. Va bene, la ringrazio Carlo, gentilissimo. Grazie. Grazie ancora. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Piccola pausa. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed ecco la nostra prima concorrente, Carlo. Si chiama Clara e ci ha chiamato da Foggia per partecipare al quiz. Buongiorno Clara. Buongiorno a voi. Ciao. Allora, si ricorda, no, come funziona, quindi. Benissimo. Allora, io inizio. Andiamo in Spagna per il primo quiz. Per reagire alle faticose e infinite giornate di lavoro nel reparto, alcuni operatori sanitari dell'ospedale universitario di Madrid sono ricorsi a che cosa? Ovviamente si parla di Covid. Risposta numero 1. Sono ricorsi alla cannabis distribuita in piccole quantità a tutto il personale ospedaliero. Risposta numero 2, alle partite di calcetto grazie a un campetto ricavato nel parcheggio dell'ospedale. Risposta numero 3, alla meditazione in corsia, grazie alla guida esperta di una maestra di yoga. Quindi Clara, alla cannabis, al calcetto o alla meditazione? Ma penso, sono più propensa per la cannabis, che si può fare da soli. Il calcetto lo escluderei perché stare insieme non è consigliabile. E anche la meditazione, insomma, assieme mi sembra improbabile in questo periodo. La 1. Ah, ok. Non era la 1, non era la 1. Okay. Ho apprezzato molto il ragionamento, però comunque, diciamo, forse... Ha dimenticato il fatto che stavamo parlando di un ospedale universitario che distribuisca la cannabis a tutti. Mi sembra un po' strano, ma mi sembrerebbe uno straordinario si può fare. Quindi in realtà era la meditazione in corsia, okay, grazie alla quale con degli esperti, con la maestra di yoga, tenendosi, come giustamente ci ha ricordato lei, a debita distanza, così hanno risolto. Ok, benissimo. Beh, per loro. Grazie comunque Carla della telefonata. Grazie per aver partecipato. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Cambiamo decisamente argomento a questo punto, andiamo a riprendere un tema del quale ci siamo occupati un po' la scorsa settimana nella nostra classifica, quando io ho più volte ripetuto il numero 1522 contro le violenze domestiche, per le donne che subiscono violenza domestica. Bene, torniamo su questa questione, parliamo con Elisa Visconti, responsabile dei programmi di ActionAid, perché, buongiorno Elisa. Buongiorno. Perché ActionAid si è particolarmente impegnata, no, su questo fronte e sta cercando di raccogliere anche fondi per dare un sostegno concreto a chi? Sì, certo, stiamo cercando di, e abbiamo iniziato in realtà a dare un sostegno innanzitutto ai centri antiviolenza e alle case rifugio, che vuol dire dare sostegno poi diretto alle donne che subiscono violenza. Quindi contribuendo come, diciamo, possiamo, no, partecipare? Noi conosciamo ActionAid, credo la maggioranza delle persone in ascolto conoscono ActionAid per i suoi programmi nei paesi in via di sviluppo, in particolare con i bambini, quindi questa volta siete su un campo un po' più nuovo, almeno per quello che riguarda l'Italia e quello che noi conosciamo delle vostre azioni. Ma sì e no, nel senso che ActionAid sono 40 anni che fa progetti, come giustamente ricordava, di sviluppo in comunità in qualche modo vulnerabili, ma i progetti che facciamo da sempre si basano su un approccio che tutela e garantisce i diritti umani. Quindi in 40 anni di esperienza, ahimè, abbiamo imparato che la violazione più comune dei diritti è proprio quella legata alla violenza di genere. Quindi l'organizzazione anche a livello di federazione internazionale si occupa di questo tema da decenni, e con un certo orgoglio le dico anche che siamo un'organizzazione che ha adottato un modello di leadership femminista, quindi è un tema molto presente nel nostro lavoro, e quindi quando abbiamo aperto la missione Italia, mettiamola così, una decina di anni fa, siamo andate in continuità con il lavoro che facciamo fuori dall'Europa, e quindi il lavoro a tutela delle bambine e delle donne è proprio nel nostro DNA, direi. Carlo, siccome non ci vediamo, se devi intervenire. Sono qui. Batti un colpo, diciamo, capisco. Ero curioso di capire come sta andando la questione delle violenze domestiche in questo momento di coronavirus, nel senso che abbiamo la sensazione che stiano aumentando. Avete voi magari dei segnali più precisi dei nostri sull'aumento delle violenze domestiche e di genere? Guarda, è una domanda molto, molto complessa, nel senso che quello che sta succedendo in questo momento è veramente un'emergenza nell'emergenza, E l'indicatore che ci ha fatto molto spaventare a noi come ActionAid, ma anche insomma la rete nazionale dei centri antiviolenza fino alla ministra Bonetti, è il fatto che le richieste di aiuto fatte attraverso il 1522 siano calate in modo drammatico. E questo avviene perché in un momento di chiusura, no, di vicinanza forzata con il maltrattante, le possibilità di richiedere aiuto diminuiscono moltissimo. È quello che normalmente insomma, si potrebbe definire un effetto weekend, no? Quando le persone sono costrette a stare con il maltrattante, molto spesso non richiedono aiuto. Ecco, questa emergenza è come se fosse un effetto weekend prolungato nel tempo, con degli effetti devastanti, certo, nel medio termine. Quindi direi che la mancanza di richieste è l'indicatore più forte che ci dice che dobbiamo stare veramente molto attenti in questo periodo. Quindi come facciamo però? Insistiamo col 15-20, nel senso che da una parte la raccolta va ovviamente ai centri, laddove poi dopo la persona che è in difficoltà adesso tra le mura domestiche potrà arrivare in futuro, ma al momento non c'è, quindi adesso è nella fase del pericolo, no? Quindi come possiamo fare anche noi come mezzi di informazione per dire insistiamo, ripetiamo, cerchiamo di far passare il messaggio affinché arrivi alle donne in pericolo? Assolutamente sì, c'è un impegno che noi come ActionAid insieme appunto alla rete dei centri antiviolenza e che è stato poi preso in carico dalla ministra, è quello di fare passare in continuazione il messaggio reale che il 1522 è attivo, i centri possono funzionare nonostante delle difficoltà enormi che sono quelle che poi d'altro lato cerchiamo anche di colmare in qualche modo con il nostro intervento, e che ci sono diversi mezzi che le donne in situazione di pericolo possono usare. Il 1522 è una linea telefonica, esiste anche un'app scaricabile sul cellulare che non lascia traccia delle conversazioni che si hanno con le operatrici, ci sono i mezzi social, quindi si trovano anche sui social, e quindi è molto importante che le donne sappiano che c'è la possibilità di richiedere aiuto in modo in qualche modo sicuro, direi. E l'app si chiama, è sempre legata. È molto giusto. Volevo chiedere se la questione di cui abbiamo parlato, cioè il codice mascherina 1522, che era quello che dicevamo che si poteva andare in farmacia e comunicarlo al farmacista in totale sicurezza senza farsi accorgere dall'eventuale marito che potrebbe essere presente, sta funzionando questo codice? Non abbiamo purtroppo dati in questo momento, sappiamo che le richieste sono ancora molto basse, il codice mascherina è tutto sommato nuovo, diciamo, per cui è difficile, certo, valutarne l'impatto. Sicuramente continuiamo a promuoverlo. Questo per rispondere un po' a che cosa si può fare in termini di prevenzione che mi chiedeva la collega. In termini di risposta, la cosa fondamentale è agire sui centri antiviolenza, che in questo momento non sono tutti messi in sicurezza. Quindi mascherine, disinfettanti, guanti, parliamo di questo, no? Sì, esatto, dispositivi di protezione individuali, ma anche una sanificazione vera e propria degli ambienti. Nelle varie ordinanze non sono state prese in considerazione ad oggi centri antiviolenza. La ministra Bonetti ha fatto una richiesta al commissario Borrelli perché venissero chiaramente equipaggiati con tutto quello che può mettere le donne e le operatrici in sicurezza. Parte dell'intervento che ActionAid sta facendo è proprio quello anche di cercare di fornire, no, certo, i dispositivi e di mettere in sicurezza. Certo, no, Elisa, io la ringrazio molto perché dobbiamo dare la linea a GR24. Elisa Visconti, ricordo, responsabile programmi ActionAid, e sul sito di ActionAid trovate tutti i riferimenti e le necessità di cui abbiamo detto. Allora, linea a GR24, Carlo, a tra poco. Si può fare. può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, torniamo insieme alle 9:07. Carlo, se ci sei, ci senti? Tutto a posto? Buongiorno. Benissimo. Ci allora, sono. Siamo sempre pronti, vero, anche per il quiz, ove qualcheduno volesse chiamare all'824-0024. Ne abbiamo tanti. Ma soprattutto oggi, per le vostre chiamate, se volete chiamarci e dirci cosa farete dopo. Ci dobbiamo preparare anche al dopo, quindi che cosa farete appena finisce, dove andrete, o se avete un luogo del cuore, o se avete un progetto con tutta la famiglia, o magari volete rivedere delle persone che non rivedete da un sacco di tempo. Ecco, che cosa farete subito dopo, chiamateci per dircelo. Io ho detto che andrò a mettere i piedi nel fiume e poi sdraiarmi sull'erba. Carlo invece aspetta di sapere quando per decidere esattamente cosa farà, vero? Esatto, sì, al momento sì. Esatto, ci sono tante persone, però se dovessimo guardare un po' all'esperienza, vero, che hanno già maturato in Cina, che la prima cosa che hanno fatto quando sono tornate libere sono andate a chiedere il divorzio. Proprio così, coronavirus in Cina, boom di divorzi dopo una convivenza forzata in isolamento. E in effetti è una, no, delle possibili conseguenze, non trovi, Carlo? Ah, assolutamente sì, anche se devo dire che non so, sarà che io poi a casa sto bene, ma invece io con il mio compagno lo amo sempre di più. Credo che se senza di lui sarei veramente già morto, senza di lui sbatterei la testa contro il muro. Cioè, io credo che sia molto molto peggio fare la quarantena da soli. Ecco, se fossi da solo credo che mi avrebbero portato via i cattivi pensieri, invece il fatto di essere in due la trovo veramente una salvezza. E poi, se devo dire, ecco, però sono in un'altra situazione, è più il fatto, diciamo, preparatorio. Io penso che sia uno straordinario stress test per decidere se sposarsi o meno, e noi continuiamo dell'idea che dobbiamo sposarci. Beh, vedi, c'è chi si divorzia e chi invece progetta, ma non sei l'unico, perché si anche nella nostra squadra ce n'è un altro, vero? Un certo Andrea, che anche lui progetta matrimoni, quindi vabbè, sono situazioni e momenti della vita diversi. Comunque, per tornare alla questione cinese, noi abbiamo deciso di chiedere a un esperto del settore cosa si può fare per evitare di piombare nel boom dei divorzi, appunto, come quello che è successo in Cina, che si sta registrando in Cina. Il nostro esperto è niente meno che Antonio Ornano, comico televisivo che affronta spessissimo la tematica del rapporto di coppia. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Che dici? Che dici? Si registrerà anche da noi questo boom di divorzi o sarà un boom di matrimoni? Ma secondo me, considerando la Cina, i numeri sono truccati, sono molti di più quelli che hanno chiesto il divorzio, secondo me, in Cina. Cioè, il governo ha impedito di divulgare i numeri corretti. No, secondo me sì, io cerco di essere abbastanza ottimista, però ho questa visione cinica dettata dal mio rapporto di coppia e mi rendo conto che è fondamentale avere delle valvole di sfogo, forse anche, io non lo so, ma faccio le scale del mio condominio, perché l'unica attività fisica che posso fare per sfogarmi, e sono d'accordo con Carlo, perché è uno stress test pazzesco, soprattutto se hai un rapporto di coppia consolidato in un matrimonio, e soprattutto se hai dei figli, perché questo viene ovviamente esacerbato anche dalla convivenza con i bambini piccoli. Esatto. Perché adesso Bolivia sono meravigliosi, sono stupendi, io adoro i miei figli e voglio anche tanto bene, a dispetto di quello che racconto a mia moglie, però la quotidianità è faticosa, perché forse solo che non so, fargli fare le video lezioni al computer è pesante, no? Beh, più che altro, esatto, sì, è difficile stare dietro a tutto e stare anche in armonia. Poi non siamo più abituati a stare in casa tanto, perché tutti noi abbiamo, no, delle attività, delle cose, per cui di solito quando si arriva a casa è il momento, ah, che bello, stiamo insieme. Adesso non si vede l'ora di uscire e dire, ah, che bello, posso uscire. uscire per le scale o posso andare a fare la spesa. Io sono assolutamente d'accordo con voi, io vado a fare la spesa e ho deciso di immolarmi, no? Di sacrificarmi, di andare sempre io a fare la spesa, e ogni volta che ci vado cerco di andarci negli orari di punta, no? Per metterci più tempo in assoluto, hai capito? Per fare più coda. Sono anche una persona meravigliosa, faccio passare le persone anziane che hanno la priorità, no? La gente mi scambia per una brava persona, in realtà lo faccio solo per stare più tempo. Egoismo. Non hai letto bene il Cura Italia, perché sotto, scritto molto in piccolino, c'è scritto che chi va a fare la spesa durante questa quarantena poi dovrà andarci per almeno un anno sempre lui, perché è troppo comodo che tu ci vai adesso e poi il giorno in cui finisce la quarantena ci mandi tua moglie, no caro? Non è così, e adesso che l'hai detto pubblicamente verremo a controllare. Ma guarda che io lo facevo già prima, a dire il vero, la facevo già prima, tra l'altro purtroppo mia moglie, poveretta, si è anche spaccata tibia e perone andando a pattinare il 2 gennaio, perciò io questa abitudine a prendermi cura un po' di tutto ce l'ho ormai consolidata, nel senso che poi è l'unica persona che al momento porta a casa uno stipendio, Carlo, è lei, no, che fa smart working, io sono completamente disoccupato e non posso dire nulla, sono al servizio puro e semplice, anche questo che appesantisce, no? Appesantisce lo stress. Perché ovviamente tutta la parte di spettacolo è ferma, televisivo o non televisivo, tutto. Sì, no, poi è stato molto bello perché è sparito tutto quanto, no, progressivamente, no? Prima il teatro, poi dopo le ultime trasmissioni televisive, una serie TV, però voglio dire, le cose, a parte gli scherzi, le cose importanti sono altre, cioè prima o poi si riprenderà, l'importante è che comunque stiamo bene, dai, che passi questo delirio. Poi secondo me dopo ma ci senti, sarà una voglia senti di... altri colleghi? Perché mi sembra molto, in realtà è giustissimo quello che tu dici, in questo momento ci sono altri problemi, però è giusto anche affrontarlo, nel senso che molti lavoratori dello spettacolo ovviamente in questo momento sono fermi, fermissimi, ma soprattutto almeno io la domanda che ogni tanto mi faccio è che cosa accadrà dopo, perché adesso ci mancherebbe altro, nessuno, ma dopo le persone avranno voglia di andare a teatro? Io sono convinto assolutamente di sì. Anzi, secondo, io poi ripeto, qui mi contraddico rispetto a quello che vi ho detto, se prima avevo una visione pessimista nel rapporto di coppia, invece per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo sono piuttosto ottimista, nel senso che se ci saranno le condizioni di salute per poter riaprire tutto, la gente avrà una voglia pazzesca, secondo me, di intrattenimento, no? Anche di aggregazione, secondo me. Il problema è sapere, certo, quando. Ti avviso che cadrà. Sempre nel Cura Italia è sempre scritto in piccolino: sarà vietato fare battute sulla quarantena e il coronavirus. Sì, perché questo non se ne potrà quei monologhi più. Tutti i comici li stanno scrivendo già adesso. Questo non se ne potrà più, però non so se tu sei d'accordo, nel momento stesso in cui tu fai uno spettacolo dal vivo e l'avevi pensato in un certo modo, io dovevo debuttare col nuovo spettacolo 2 settimane fa, e ovviamente la premessa cambia completamente, no? Nel momento stesso in cui racconti sì. di te, e inevitabilmente un accenno glielo dovrai fare, sarà così, però secondo me la gente avrà una gran voglia di intrattenimento, di aggregazione, di socializzazione, ovviamente anche di ridere, spero. Il problema è sapere quando, certo. Perché secondo me saremo gli ultimi, probabilmente, giustamente forse, perché noi non possiamo prescindere dall'aggregazione, no, delle persone quando facciamo uno spettacolo, soprattutto dal vivo, no? Sarà così. Ecco, io spero soltanto che quando arrivi, no, sia più o meno come prima, nel senso che, ecco, non, sinceramente non tollererei quelle situazioni in cui magari, non so, ti trovo un teatro con una persona sì e 3 posti vuoti, ecco, quello sarebbe un ibrido bruttissimo, meglio secondo me non farlo, ecco. Però si festeggerà dicendo ho avuto il teatro mezzo pieno, che è is the new sold out, esatto, perché un posto sì, un posto no, basta la metà degli spettatori. Ma io da quel punto gigantesco. Di vista ho fatto una vita ad essere abituato in quei termini, dei mezzi forni stupendi, perciò sarà il bicchiere mezzo pieno. Ti aiuto a riscrivere lo spettacolo molto volentieri con la nuova premessa. Ma magari sarei lusingato. Benissimo, allora io vi devo interrompere, come nelle migliori, no, trasmissioni, vi metteremo in contatto tra di voi in modo che vi possiate scambiare i numeri di telefono. Vi devo interrompere perché abbiamo il nostro momento viabilità. Grazie Antonio Ornano, buon lavoro, buon proseguimento. proseguimento. Buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, a proposito di cosa faremo dopo, beh, allora c'è chi dice: sogno di tornare a casa mia perché sono bloccato in un alloggetto di fortuna per motivi che ovviamente non sappiamo, quindi sogno di tornare a casa. Chi sogna di andare a teatro? Chi sogna di andare dal parrucchiere? Antonio da Sassari, lei invece, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Io sogno di riprendere, di andare al mare alla grande. Il mio amore è infinito. Ah, quindi proprio mettersi in acqua, no? Insomma, non sulla spiaggia, non la passeggiatina. Lei sogna proprio no, il mare. No, io faccio il bagno tutto l'anno, dal 1996 entro sempre in acqua. E adesso no. E adesso no, purtroppo, e concordo col signore che dice che vivere da soli, insomma, sì, è vero, io a casa sto da solo, ho una gatta, ma veramente devo essere centrato per non debordare i pensieri cattivi. Certo, ci si lascia un po' andare, e il mare di solito è di conforto, invece adesso deve rinunciare anche a quello, quindi ovviamente... Anche i gatti aiutano, io ho anche due gatti, quindi anche i gatti aiutano, volevo rincuorare il signore. Sono potentissimi, gli antichi egizi ne sapevano qualcosa. Vero, bravo. Bene. Ah, vi sì. vi seguo da sempre e mi fate molta compagnia. Guardi, c'è un altro che stavo leggendo adesso, mi sono distratta perché proprio farò un'uscita in barca a vela. Vede che il mare rientra in tanti sogni degli italiani, del resto no, siamo circondati dal mare, quindi... Per tutti noi è un po' il sogno della libertà, il mare, no? Il sogno di stare all'aperto, e si collega direttamente alle spiagge. Poi ovviamente ci sono anche le montagne, ma per ora gli amanti della montagna non si sono palesati, quindi io riferisco. Grazie Antonio. Viviamo 9 mesi in un liquido amniotico, quindi è un ritornare alle origini, quando si rientra e si mette all'interno del proprio mare. Allora, Carmelo Lauricella mi ha detto che lui ha in mente la montagna, invece, visto in regia, sognano la montagna. Grazie molte, Antonio, grazie davvero. Buona giornata. Buona giornata a lei. E a questo punto abbiamo in collegamento Paola da Milano per il quiz. Quindi, Carlo, andiamo a prendere subito il grande librone dei quiz. Paola? Sì, sono pronto e prontissimo. Benissimo. Buongiorno, benissimo. Signora. Buongiorno. Allora, pronta, Allora, bella iniziativa dello chef Carlo Cracco, che ha deciso di dare una mano alla città di Milano in questo momento difficile. In che modo? Risposta numero 1: donando tutto l'incasso dell'ultimo anno all'ospedale San Raffaele. Risposta numero 2, cucinando gratis per i lavoratori che stanno realizzando il nuovo ospedale nella zona fiera. Risposta numero 3, preparando il Cozzona Vinus, una zuppa di vino e frutti di mare che sarà consegnata a domicilio a tutti i medici della città. Allora, mi sembra di aver letto la notizia ed è la 2. Quindi lei dice... Ovvero cucinando gratis. Esatto, per i lavoratori. Sentiamo il nostro giudice. Signora Paola, si porta a casa il nostro libro. Bene, grazie. Benissimo, allora verrà ricontattata come funziona normalmente dalla nostra segreteria la prossima settimana, e così potrete mettervi d'accordo e scambiarvi indirizzi e noi i doni nei suoi confronti. Grazie davvero Paola. Lei cosa farà quando sarà libera di fare quello che vuole? Un bel picnic sul prato. Un picnic sul prato, effettivamente sì. Anche questa è una grande idea. Contatto con l'erba. Benissimo, ci manca un po' a tutti questa cosa di poter andare fuori così liberi. liberi. Molto bene, la ringraziamo molto davvero, Paola, e abbiamo un'altra concorrente per il quiz che è la nostra ascoltatrice Rosanna da Firenze. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, Rosanna. Buongiorno. Allora, le leggiamo. Io sono una lavoratrice forzata perché, essendo un'informatica, mi tocca lavorare e lavoro più di prima, quindi mi ritrovo tutto il giorno, abito da sola, scusate se invado. No, no, prego, mi ritrovo tutto il ma giorno prego, a lavorare. Prego. Mi ritrovo tutto il giorno a lavorare e dura persino dire, devo fare la spesa, no, la coda è troppo lunga, la farò un altro giorno. Ora il weekend finalmente si possono fare le cose che si facevano prima. Perché in realtà con questo smart working si lavora più di prima, soprattutto perché lo si è un po' interpretato male, nel senso che smart working vuol dire lavorare sugli obiettivi da casa, non vuol dire che alle 8 il tuo datore di lavoro ti chiama e ti dice allora sei davanti allo schermo o no. Noi non è questo, però anche noi abbiamo dei progetti, siccome lavoriamo, nel mio gruppo si lavora per le banche non smettono mai, non staccano, hanno bisogno dei loro dati, delle loro segnalazioni e quindi prestano per avere quello che giustamente devono avere noi, ma e questo certo. L'avevamo anche prima, solo che il fatto di essere a casa e di essere da soli ti fa stare sul pezzo molto di più. A volte dici, vabbè, devo finire questa cosa, la farò tanto, che ho da fare. Alla fine. Vabbè. Allora, Rosanna, io adesso però le faccio la domanda famosa. La sindaca del comune di Bescapè, nel Pavese, ha dato il via a un'originale iniziativa per incentivare la gente a rimanere a casa. Di che cosa si tratta? Risposta numero 1. Un concorso che mette in palio 500 euro per il balcone più fiorito, il giardino più originale e il pomodoro più grande. Risposta numero 2. Una damigiana di Bonarda, in regalo per ogni settimana passata in quarantena. E risposta numero 3, un posto di lavoro in comune per chi obbedirà a tutte le regole di distanziamento sociale. Quindi qual è l'iniziativa della sindaca? Il primo è... cos'era? È 500 euro per chi ha il giardino più bello, per chi, mi scusi, ha il balcone più fiorito. La seconda è la damigiana di Bonarda. Facciamo il primo, va. Il balcone. Facciamo il primo. Ed è giusto. E così è. E così è, veramente. È una bella idea della sindaca Emanuela Curti, che ha chiamato a raccolta tutti i propri cittadini. E infatti, siccome mi piaceva l'idea, ho detto speriamo l'abbia fatto questo. Allora, l'ha fatto, dai, fatelo anche a Firenze. Grazie molte, Rosanna. Grazie. Buona giornata, buona presto, giornata. A risentirci. Salve. Adesso è un grande piacere per me presentarti e presentare ai nostri ascoltatori il nostro prossimo ospite, che è il cavalier Ernesto Pellegrini. Buongiorno. Buongiorno. Mi fa tanto piacere voi. Sentirla, l'abbiamo cercata un po', non riuscivamo a trovarci, no? Con le linee telefoniche ci impigliavamo, ma insomma ci tenevamo molto a che lei fosse nostro ospite, perché abbiamo visto che la sua azienda sta donando la bellezza di 50.000 pasti alle persone anziane e persone che hanno comunque difficoltà in questo periodo. 20 comuni quasi, 19 o 20? 19 per l'esattezza. È una bellissima iniziativa che avete varato. Penso e che porterete avanti fino a quando? Ma sicuramente fino al 15 giugno di quest'anno. Sempre che a quell'epoca il coronavirus sia scappato, se invece continuasse, ma io ho qualche dubbio, spero proprio di no, allora potremmo rivedere e andare un po' avanti ancora. Vedremo. È molto, come dire, è importante quello che state facendo, una parte è beneficenza, una parte è anche contro lo spreco, immagino, cioè voi avete tante scorte lì che dovevano servire per la vostra normale attività di ristorazione, adesso potete dirottarle, diciamo, verso questa operazione, dando anche del lavoro. Sì, ma non c'entrano le scorte. Credo qui è un concetto di solidarietà che, se mi dà due minuti, glielo spiego, perché c'è una motivazione molto profonda che arriva da lontano, insomma, no? E cioè, devo premetterle che io mi sono inventato imprenditore nel 65 con 150.000 lire regalatemi dal capo della Bianchi Biciclette dove lavoravo. Oggi, dopo 55 anni, quindi allora avevo 24 anni, mi trovo ad amministrare con mia figlia Valentina un'azienda italiana di servizi che dà lavoro a ben 9.000 persone, anzi a più di 9.000 persone, quindi sono stato fortunato. È per questo che non posso dimenticare mai di ringraziare intanto il buon Dio di quello che ho avuto dalla vita, ma anche di restituire un poco a chi è in difficoltà. Ed è per questo che in occasione dei 50 anni di attività nel 2015 noi abbiamo realizzato il ristorante Ruben, di cui si è parlato abbastanza, sono 300 persone ogni sera che vengono a mangiare da noi e pagano un euro per dignità. A proposito, anche a Pasqua mangeranno e offriremo oltre al pasto anche una colombina. E quindi in questo filone di solidarietà che la mia famiglia, in particolare mia figlia ed io, abbiamo sempre sostenuto, va vista anche questa iniziativa. Sono 50.000 pasti che, come ha detto bene lei, vengono distribuiti ad anziani, persone che sono in difficoltà, che sono in quarantena, che non possono uscire da casa. Quindi crediamo che sia un piccolo aiuto verso chi. Ecco, come avverrà la distribuzione? Nel senso che noi la conosciamo per le mense, che in realtà sono chiuse anche quelle, che sono un luogo dove le persone solitamente vanno, invece voi questi 50.000 pasti li andrete a consegnare direttamente ai bisognosi a casa, giusto? Sì, sì, certo. C'è un'organizzazione alle spalle, naturalmente, sono prodotti nei centri di cottura i pasti e quindi poi distribuiti attraverso un'organizzazione che porta proprio il cibo alla casa, in casa. Ma siete sempre voi, nel senso che questo è un modo per far lavorare anche i vostri dipendenti che andranno a portare, o è un'altra organizzazione? Certamente, siamo tutto noi. Noi non in appalto non diamo proprio niente, siamo in tanti dipendenti, quindi tutti lavorano verso un unico obiettivo e quindi va bene così. Senta, lei ha detto prima 2015, 50 anni, quindi quest'anno 55 ne fate. Infatti, pensi che noi il 15 giugno, se permettete, una data un po' storica per noi, perché noi dovremmo festeggiare i 55 anni. I 50 anni noi li abbiamo festeggiati a Lourdes, eravamo in 250, suore, preti, amici, bisognosi, persone che non stavano bene di salute, che avevano un motivo di sperare, eccetera, eccetera, e abbiamo festeggiato ringraziando la Madonna. Pensavamo di farlo anche in occasione dei 55 anni, fermo restando che poi la grande festa con i dipendenti e con gli amici, con i clienti, l'abbiamo fatto successivamente. Infatti in occasione dei 50 anni noi abbiamo festeggiato con Ennio Morricone alla Scala, 1.300 persone, c'erano anche dei politici in quell'occasione, oltre che clienti, amici, eccetera, eccetera, no? Rimaniamo sulle cose belle. Quest'anno abbiamo sospeso momentaneamente, però una speranza c'è ancora, chissà che magari da qui a fine del mese di aprile le cose possono cambiare, o metà maggio, in modo tale che si possa organizzare magari anche un po' in fretta, ma il viaggio a Lourdes, a cui noi teniamo tanto, tant'è che è dal 94 che ogni anno noi lo organizziamo, quindi sono passati 25 anni. Potrebbe esserci un po' di coda a Lourdes il 15 giugno, visto il virus. Sì, beh, insomma, speriamo che il virus sia scappato, come si suol dire. Il mio amico Albano mi ha scritto proprio ieri un messaggio bellissimo, no? In cui in sintesi gli diceva: questo è nato, ma scapperà, morirà. Solitamente così, e io sto preparando una grande festa, ha aggiunto Albano, per quando andrà via da noi, per stare insieme, per poterci abbracciare e festeggiare, insomma. E festeggeremo, sì, è il caso proprio di dirlo. Dai, sì. Tanti la salutano degli ascoltatori, fare invece di parlare, grande, bravo, insomma, con tutti noi possiamo fare qualcosa, giusto Cavaliere? Ognuno nel suo piccolo. Assolutamente sì, dobbiamo essere uniti, non v'è dubbio che noi milanesi siamo conosciuti come persone che hanno il cuore in mano, no? Però credo che di poter dire che tutto il paese si è sempre un po' distinto per la generosità delle persone, insomma, quindi tutto sommato siamo un gran bel paese, insomma, ecco, anche se ogni tanto ci sono dei bisticci politici, ma siamo liberti, insomma, no? In questo momento in modo particolare. E in questo momento in modo particolare fare e non parlare. Grazie sì. Molte, Cavaliere Ernesto Pellegrini, presidente della Pellegrini. Sì, quel Pellegrini, scrivono alcuni, quello dell'Inter, precisamente. Tra i comuni, tra l'altro, beneficiari, no? C'è anche a Piano Gentile del servizio che avete installato, quindi il cuore c'è sempre un po', no? Sull'Inter. Il cuore c'è, è sempre lì, allo stadio. Almeno qui a Milano, ecco, raramente fuori Milano, ma a Milano ci sono sempre, ti fare per la mia squadra del cuore. Bene, a presto allora, anche allo stadio torneremo, grazie a tutti, e vi anticipo una buona Pasquetta. Grazie. Va bene. Buona Pasqua anche a lei, abbiamo una piccola pausa, tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E dai, a proposito di cose che si possono fare, Carlo, no? Arriviamo finalmente alla storia del robottino che avrebbe dovuto accogliere i visitatori all'ingresso della mostra Robot The Human Project, quello mostra del MUDEC qui del gruppo 24 ore, e che invece adesso presta servizio all'ospedale con persone malate di Covid-19. No, dicevamo prima, una storia particolare, una storia che ci piace molto raccontare, no Carlo? Assolutamente sì, e speriamo presto di avere direttamente il robottino da poter intervistare, visto che è un robottino empatico del quale voglio sapere tutto. E allora tutto chiediamo ad Alberto Mazzone, che è il responsabile scientifico del laboratorio di neuroingegneria computazionale dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, curatore anche della mostra del MUDEC. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che dice, ci soppianterà la conduzione il robottino empatico? Che dice? No, diciamo, non è ancora, diciamo, non sono questi i compiti per i quali al momento stiamo progettando i robot. No, ma per la conduzione secondo me c'è tempo, e semmai per sostituirla come ospite, perché non mi spingevo fino alla conduzione. Questo sì, c'è uno scienziato giapponese che già manda il suo robot che lo imita perfettamente alle conferenze, lo chiama il Geminoide. Ah. Quindi come ospite tra poco questo tipo, è il forse... sogno, è il sogno di tantissimi. Mandare, sì. Però vabbè, risponde a tutte, perché un conto se parla, cioè se espone, ma rispondere alla domanda, risponde anche alla domanda? Allora c'è un po' un trucco. Si chiama Geminoide? Geminoide, sì, il professor Ishiguro, che ho anche avuto il piacere di conoscere, un tipo un po' strano, uno si fa un doppio robot, diciamo, è una persona forse un po' strana, anche se sicuramente geniale. Ma lei ha conosciuto il robot o la persona? Scusa. Me lo sono chiesto tutto il tempo, ma sto veramente parlando con lui o sto parlando con il suo Geminoide? Perdoni, è la stessa domanda che ci stiamo facendo noi. Come possiamo essere sicuri che lei in realtà non sia un robot? Qual è la domanda, la cosiddetta domanda di sicurezza che dovremmo farle per scoprire se lei è un robot o se è invece Alberto Mazzoni? Diciamo, il fatto che mentre parlava del Geminoide mi ha fatto venire un po' da ridere, forse questa è la prova che sono un essere umano ancora, proprio i robot che ridono non ci sono. Ah ecco, giusto. Va bene, torniamo a quelli che sono in servizio in corsia a Varese, no? Nell'azienda sociosanitaria Sette Laghi, dove è stata lanciata questa sperimentazione. Quei robot in corsia cosa possono fare? Quelli che dovevano accogliere noi visitatori al museo adesso vanno là, cosa fanno? Allora, Sunbot Elf, che è il modello di robot che al momento è in corsia a Varese, è un robot nato per essere collaborativo. Quindi non avrebbe soltanto anche alla mostra, non avrebbe soltanto detto benvenuti alla mostra, ma proprio avrebbe interagito con il pubblico, capendo chi è che gli parlava, rispondendo in modo autonomo, in quel caso in modo autonomo, alle domande. E quindi è sviluppato pensato per l'interazione sociale. Come questo è utile in questo momento? Allora, i compiti che svolgerà a Varese sono sostanzialmente di due tipi. Il primo è quello di telepresenza, quindi noi utilizziamo questo termine un po' da film, farà l'avatar dei medici, quindi i medici potranno spostarsi e vedere il mondo attraverso gli occhi del robot, parlare con i pazienti, non solo... Non sarà soltanto una specie di cellulare ambulante, ma avrà con sé anche tutti i dati. Quindi, per esempio, i pazienti, anche quando il medico non è lì, potranno chiedere informazioni sulla loro propria situazione clinica e il robot è in grado di rispondere anche quando il dottore non è in quel momento collegato attraverso il robot. Quindi, sia assistenza già con questo... i dati. In realtà già questo è una cosa fondamentale, perché se fino a ieri già ne parlavamo e appunto, come giustamente stava dicendo lei, può sembrare semplicemente come se fosse un cellulare che si sposta, ma in realtà diventa fondamentale in un momento in cui c'è la paura del contagio, perché questo vuol dire per i medici non dover ogni volta mettere guanti, mascherine, cambiarsi ogni volta che cambiano distanza, cioè avere la possibilità di parlare con 10 pazienti con dei tempi decisamente più rapidi e comunque con la loro voce, quindi al paziente parla un essere umano. Sì, noi diciamo, la nostra filosofia in generale, tutti quelli che si occupano di robotica, è che i robot ci devono sostituire nei compiti stupidi, faticosi e pericolosi. Ora, l'interazione sociale, certo, è tutt'altro che un compito stupido, un compito richiede molta intelligenza. Infatti Sunbot, poi se volete ne parliamo brevemente, è anche dotato di intelligenza artificiale, questo è un elemento molto interessante. Però la cosa un po' critica è che adesso l'interazione sociale è purtroppo un fattore di pericolosità, quindi un robot che era specializzato in interazione sociale adesso può sostituire, da una parte evitando quindi l'esposizione dei medici e soprattutto degli infermieri al virus, però giustamente ha fatto notare lei, anche evitando molta fatica, facendo risparmiare tempo ai medici e agli infermieri che devono fare questa lunga trafila e quindi perdere decine di minuti in entrata e in uscita, mentre invece adesso che sono sotto pressione devono fare mille cose, possono risparmiare il tempo, si collegano e possono dare un'occhiata alla situazione. Non solo, anche vedere, certo, appunto, non è un cellulare che richiede dall'altra parte una cosa attiva. Se c'è un paziente che sta dormendo e non risponde, in qualche modo uno manda il robot a vedere cosa sta succedendo, a guardare lo schermo, a guardare il paziente, quindi è molto di più, è veramente una telepresenza, certo, in remoto. Ma visto dalla parte del paziente, forse il paziente non è ancora abituato, non so come reagirei io, ecco, a essere accudito da un robot. Guardi, abbiamo avuto, diciamo, i primi feedback dai pazienti che ci hanno fatto osservare una cosa molto interessante. Cioè, nell'ultimi giorni, quando interagivano con i dottori inevitabilmente andavano completamente bardati, tipo come uno si immagina questa, appunto, scena da film di fantascienza, si dice sempre. Certo. E quindi loro avvertivano, non so, una sensazione. Allora sono messo proprio male, perché le persone per parlare con me sono... devono vestirsi in questo modo. Paradossalmente, mentre... forse quasi meglio, quindi sì, uno invece... dice: ma mi hanno mandato il robot, vuol dire che non sono poi così grave. Dal volto del robot, cioè praticamente la cosa che succede è che il volto del robot, quando si collega il medico, si vede il medico, quindi a quel punto, però il medico a quel punto è vestito normale, senza mascherina, quindi diventa un po' come fare una chiamata a casa col cellulare, una videochiamata. Quindi in realtà, da una parte, l'interazione col medico è più serena, perché diventa letteralmente una videochiamata a casa, invece di avere accanto a sé una persona che però è costretta a mettersi tutte queste, diciamo, apparecchiature di protezione. E dall'altra, una cosa interessante è che si tratta proprio di un robot sviluppato per essere collaborativo, e questo significa che si è fatta molta attenzione al design. I robot di questo decennio non sono più soltanto efficienti, abbiamo capito, proprio perché vogliamo che si integrino nella società umana, che devono essere anche carini. È importante il design. C'è una cosa di cui parliamo molto alla, certo, mostra, che si chiama Valle del Perturbante. Ci siamo accorti che se uno fa un robot sforzandosi che sia molto realistico, in realtà il risultato è quasi sempre qualcosa di inquietante. E allora, se vedete le foto invece di Sunbot Elf, non è per niente realistico, sembra un gioco sì, per bambini, ha delle linee molto semplici, molto nette, molto simpatiche, perché ci siamo resi conto che per l'integrazione sociale dei robot, anche per non dare l'idea di sostituzione, la cosa migliore è avere un design di questo tipo, per cui sono pensati apposta per essere piacevoli all'interazione. Se posso fare un altro esempio, alla Scuola Superiore Sant'Anna noi utilizziamo i robot nell'assistenza degli anziani, è un test che stiamo facendo, diciamo il badante robot. Ora è chiaro che l'anziano è una persona che non è abituata a interagire con la tecnologia, quindi devono essere tutti robot di nuovo, carini, simpatici, che capiscono subito tutto quello che gli si dice e che in generale devono dare una sensazione di fiducia e simpatia. Quindi è da tanto tempo che ci stiamo lavorando e questa è, diciamo, un'ottima applicazione, quello che sta succedendo adesso a Varese. Ottimo, ottimo. Noi adesso abbiamo da interromperci, perché abbiamo la viabilità, perché qualcosa comunque succede sulle strade. Insomma, comunque non ci preoccupiamo. Ecco, insomma, se ci viene ad accudire il robot è nelle corde ormai, giusto? Ma sì, se viene ad accudire un robot sarà soltanto, giusto appunto, un'esperienza interessante, un po' un gioco, perché i robot adesso sembrano un po' questo, una cosa un po' piacevole interagire. Grazie, grazie molte. Allora, buon proseguimento. È stato un piacere sentirla. Grazie ancora e a presto. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, a proposito di cose che faremo quando torneremo a piede libero, devo una risposta a Luisella, mi pare, sì, un'ascoltatrice che chiedeva del signore di Sassari, perché va a nuotare tutto l'anno. Quindi Luisella è di Sassari, non abita nella zona di Sanremo. E invece voglio sapere da Bruno, provincia di Vicenza, cosa pensa di fare lei quando finirà la quarantena. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto io devo farvi i complimenti per l'intervista al Cavalier Pellegrini, che mi ha commosso, ed è importante che voi come mezzi di comunicazione date spazio a questo, perché in una società che predica l'odio, questa è una cosa, voi lo fate spesso, perché io vi seguo spesso, di mettere in evidenza le cose positive, e questa era la prima parte. Grazie. Veniamo alla seconda parte, allora. La seconda parte è che io spero di poter essere libero di abbracciare le mie nipotine, perché da un mese ci guardiamo da lontano e ci salutiamo con la mano. State vicini, vi guardate dalla... oppure sì, ci guardiamo dalla finestra, abitiamo a 30 metri di distanza, però ecco, teniamo le distanze. E quindi rivediamo parenti e amici, lei dice, insomma, riabbracciamoci. Le mie nipotine, ecco, che mi mancano. Le ha salutate via radio, non è la stessa cosa, però insomma, non è la diciamo. Stessa cosa. No, perché però loro vogliono toccarmi, baciarmi, che non è possibile. E mi sa anche lei, sicuramente. E poi viaggio in Sicilia, perché io ogni anno me ne vado durante l'estate in Sicilia a Tonnarella, che è una zona bellissima. Va bene, dai, ce la facciamo per l'estate, secondo me Sicilia ce la fa, dai, per l'estate. Certo, grazie certo. Bruno. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Siete bravissimi. Give me five. All right. Give me five. All right. Ed eccoci al momento delle migliori notizie della settimana. Cominciamo dalla numero 5. Vietato mangiare cani e gatti. Shenzhen è la prima città cinese a metterne al bando il consumo. Appunto, vietato il consumo di cani e gatti, oltre a quello di fauna selvatica, il che direi importantissimo. Il divieto, già in discussione a fine febbraio a seguito del dilagare dell'epidemia di coronavirus in Cina, è stato finalmente siglato. Il nuovo regolamento, approvato martedì dal Congresso Popolare Municipale, entrerà in vigore dal 1 maggio 2020 nella città di Shenzhen. Al quarto posto la Spagna. Il governo proibisce la pubblicità al gioco d'azzardo online fino alla fine dell'emergenza coronavirus. Come sappiamo, c'è una valanga di richieste di aiuto da parte di famiglie di persone con problemi di dipendenza da gioco d'azzardo di fronte a questa situazione di confinamento forzato, dove in tanti buttano i propri soldi all'interno delle slot. Il Consiglio dei Ministri in Spagna ha approvato, su proposta del Ministro degli Affari e dei Consumatori, il divieto di pubblicità di giochi d'azzardo online fino a quando non verrà revocato lo stato d'emergenza. E al terzo posto nasce il Covid Ospedale a Fiera di Milano, costruito grazie a 1200 donazioni per una raccolta di quasi 21 milioni, 10 giorni di lavoro da parte di 500 persone e con il contributo di quasi 100 imprese. A regime avrà 200 posti letto, 900 addetti gestiti dal Policlinico di Milano. La trasparenza sulla gestione dei fondi garantita dalla Fondazione Comunitaria di Milano, che gestisce il fondo dedicato. 1200 donazioni per una raccolta di quasi 21 milioni di euro che consentiranno di chiudere il progetto Covid Ospedale Fiera. Il frutto della raccolta è stato depositato su un conto speciale, appunto, dice il presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, all'inaugurazione del nuovo polo. Carlo? È caduta la linea? Vado avanti io allora. Dal secondo posto, da Lactalis ad Acqua Bracca, bonus ai dipendenti che lavorano nella emergenza, premi per i lavoratori che in questi giorni permettono alle aziende di funzionare assicurando così beni essenziali. Si sono mosso ieri in questa direzione il gruppo francese Lactalis in Italia con i marchi Galbani, Parmalat, Nuova Castelli, ma anche la società bergamasca Acque Minerali Bracca e Pineta. I premi si aggiungono al bonus di 100 euro stabilito dal governo. Questa mattina dal Sole 24 Ore, tra l'altro, abbiamo letto anche di Luxottica, ad esempio. Insomma, si moltiplicano le iniziative. Al primo posto di Bella, una task force contro le fake news. Il nostro primo obiettivo è portare acqua pulita nei rubinetti degli utenti. Fa ricorso a una citazione di Enzo Biagi, il direttore di Rai News Antonio Di Bella, per indicare lo spirito della nuova struttura per combattere le fake news, operativa da oggi e da lui guidata, uno strumento che servirà anche ad unire il paese, a dare segnali positivi, come ha spiegato l'AD Rai Fabrizio Salini, che ha annunciato l'iniziativa nella trasmissione Uno Mattina. È una struttura che si occupa di fake news e delle imprecisioni riguardo all'informazione scientifica sul coronavirus, partendo dalle evidenze più urgenti per l'informazione pubblica, ha spiegato Di Bella all'ANSA. Abbiamo sentito l'esigenza di comporre un comitato scientifico di virologi, medici, uomini di scienza, che permetta di valutare ogni volta le informazioni che arrivano in maniera tumultuosa sulle nostre scrivanie relativamente al coronavirus. Una lodevole iniziativa quanto mai necessaria. Carlo, ti abbiamo ritrovato? Sono qui. Ah, sei qui. Sai chi ti ho riportato, vero? Ormai te lo aspetti. Certo. Lo vuoi dire tu? Lo vuoi annunciare tu? Ma no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Allora, il preside del liceo Parini di Seregno, Gianni Trezzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, andiamo avanti con l'iniziativa delle poesie, perché va avanti ancora, no? Questa quarantena, certo. Quindi lei è sempre a disposizione. Finché la scuola è chiusa si va avanti. Settimana prossima sarà Emily Dickinson la protagonista. Ha già scelto Emily Dickinson. E invece per noi chi ha scelto oggi? Oggi concludiamo la settimana dedicata a Giacomino Leopardi. Forzerei un po' la bibliomanzia e andrei direttamente all'infinito, che è uno dei vertici della poesia di tutti i tempi e paesi. Glielo concediamo. Vado a leggerlo con un po' di timore e tremore, perché altri molto più bravi di me l'hanno fatto, ma sente. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là di quella, e su urbani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ecco qui, spero di averlo fatto dignitosamente. Lei lo ha fatto più che dignitosamente e ci ha fatto così. Io ho lasciato quel secondo, immagino anche Carlo apposta, no? Perché è proprio lì, è l'infinito, quando si conclude la poesia dobbiamo sentirlo, quindi come si fa a sentire l'infinito se non con un secondo? È l'infinito di Leopardi, sì. Allora, è sempre l'infinito di Leopardi, quindi è sempre sufficiente sentirne le parole. Grazie mille veramente Gianni, grazie. Grazie a voi, io ormai sono, come dire, mi sento quasi di casa. Ma anche noi la sentiamo di casa e sentiamo la sua mancanza quando lei non c'è. Sì, quindi... poi abbiamo sempre la signora Nuccia che vi ascolta con grande gioia. E sta bene. E sta bene, sì, sta bene. Anche io tutte le volte che la sento in un certo senso mi ricordo di voi, perché la signora Nuccia chiama grazie a Radio 24. Speriamo che anche altri vogliano cogliere questa occasione. Io mi sto, come dire, lo considero quasi ormai un dovere civico, non so come dire, oltre che un piacere, perché mi diverte molto farlo. Allora, grazie molte. Salutiamo anche la signora Nuccia. Carlo, noi ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento a domani, pronti come sempre ai blocchi alle 8:30. Allora, Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Carmelo Lauricella oggi in regia. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini e ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo domani.